tutto ciò lo offre e purtroppo tutto ciò è ancora permeabile. Nell'inchiesta della Procura di Cremona, che ha sconvolto il mondo del calcio tanto da far ipotizzare provocatoriamente, ma non troppo, al Premier Monti uno stop di alcuni anni, spunta anche il nome di Angelo Senese, nipote del boss del clan camorristico Moccia. La mafia ha messo le mani sul pallone, scommesse, riciclaggio e controllo occulto delle società e degli ultra sono i crocevia di un percorso iniziato anni fa, come denunciò già nel 2008 il procuratore nazionale antimafia. Il business delle scommesse sul pallone, disse Piero Grasso, è la nuova frontiera della malavita organizzata, perché consente grossi introiti e facili riciclaggi. L'allarme di allora trova conferma nelle parole del procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia. Ecco cosa ha detto qualche settimana fa a proposito di un'inchiesta della Procura di Palermo che ha portato in carcere 10 presunti affiliati a Cosa Nostra che gestivano un giro di scommesse illegali. Non c'è dubbio che se un'organizzazione criminale seria come Cosa Nostra si impegna nella raccolta delle scommesse, in genere cerca in qualche modo di influenzare anche l'esito dei risultati da cui dipendono le scommesse stesse. Tutto il settore del gioco clandestino, compreso del calcio scommesso, comunque delle scommesse sul calcio, e le altre forme di gioco clandestino sono da tempo gestite da Cosa Nostra. Questa indagine conferma conoscenze che abbiamo già acquisito nel passato. Sponsorizzazioni fittizie, partite truccate, puntate clandestine, presidenti prestanome, ultracollusi, centri scommesse di copertura. Tutti strumenti che la mafia usa per riciclare enormi somme di denaro, testare le alleanze con i clan stranieri e creare bacini di consenso, come documenta un libro appena uscito, Il pallone criminale di Simone Di Meo e Gianluca Ferraris. Il canale d'ingresso, ci dice Di Meo, è sempre quello economico. Partiamo anzitutto dai controlli, dalle infiltrazioni di alcuni clan o anche, si può dire, di altre organizzazioni criminali straniere nei capitali sociali dei club, attraverso prestanome, attraverso l'iniezione di liquidità infetta, chiamiamola così, perché proveniente dal riciclaggio di denaro sporco, dal traffico di droga o dal racket delle estorsioni. E ancora andiamo al controllo che sempre il mondo del crimine organizzato esercita sugli impianti sportivi attraverso la gestione in regime di monopolio di servizi che sembrerebbero lontani anni luce da un mondo fatto di violenza e sopraffazione, come ad esempio i servizi di security o i servizi di ristorazione all'interno delle strutture sportive, o ancora, e questo diciamo è quello che è emerso nelle ultime inchieste, attraverso l'avvicinamento di giocatori disponibili a vendersi, a farsi acquistare, a farsi corrompere per pilotare una partita in cambio di un bel mucchio di soldi. Tutte denunce queste che stanno arrivando dalle inchieste della magistratura, dalle inchieste della stampa, ma dall'interno del mondo del pallone negli anni non sono arrivate grandi denunce, è un ambiente omertoso? È un ambiente che sta faticando a trovare una dimensione che non sia più quella autoreferenziale a cui si era abituato negli anni scorsi. Storie di calcio marcio risalgono già agli anni 80 e agli anni 90, quando iniziarono a comparire i primi fantasmi di interessi illeciti della camorra, ad esempio nella gestione di alcune partite o per il controllo del totonero. Allora però rimasero in qualche modo circoscritte, oggi si mette in discussione l'intero sistema, è questa la svolta? Assolutamente sì, certo è che l'input per una bonifica seria delle metodologie e degli strumenti a disposizione dei presidenti dei club per fare pulizia attorno ai propri giocatori, attorno alle proprie società, c'è. Avete ascoltato il reportage sul calcio scommesse di Maria Luisa Pezzali, ogni giorno due edizioni, Italia in controluce, torniamo domani alle 6:30 su Radio 24.